sei qui. Come mai, mentre ci penso bevo drink e sto nei guai. Torna qui, dove vai? Canterai questa canzone, sì, ma la stonerai. E tu sei bella, ma sto mondo no. Tieni il mio cuore appeso al collo come un ciondolo. E ti fai spazio tra i pianeti. Le stelle cadono ai tuoi piedi. E ora che sono solo in ogni mia scelta, mi ricordi che il dolore è lì che mi aspetta. Mi dici come pensi, io ti dia retta. Disegna il mio cuore, fai una linea retta. Tu nella vasca con le bolle, io testa calda come un boiler. Ti ho sentita dire a tutti che farò una brutta fine. Spoiler. Non volevi sta canzone, ma già lo sai. La canterai, la canterai. E anche se di sta canzone non ne parlerai, la canterai, la canterai. Perché parla di te. Ormai non mi chiedo neanche più dove sei. Tanto se uscissi di casa ti troverei. Ti vedo tutte le sere, non è colpa mia. È la città che ha nostalgia di vederci insieme. Non dirmi che ci sei anche tu. Ogni sera ormai me la rovino. Dovrei cambiare casa e non vederti più. Ma finiresti ad abitare nel mio condominio. Sì, è tutta colpa mia. Si dice meglio soli che male accompagnati. E sono sia solo che male accompagnato. Perché quando sono solo io mi faccio compagnia. Ora sono all'aeroporto e mentre cammino rifletto. Ma è meglio se ora mi fermo. Perché mentre ti penso sono il metal detector. Di te ricordo tutto, una memoria di ferro. E vado avanti con la testa e non arriva l'assist. Nessuno sa davvero cosa passi. Non sai quello che trovi, sai solo cosa lasci. San dirti di cosa muori, ma non di cosa nasci. Io non posso vincere questa guerra. Sei troppo bella, figlia di madre perla. Adesso quando ti guardo il mondo intero si ferma. E stare a un metro da te come stare a un metro da terra. Non volevi sta canzone, ma già lo sai. La canterai, la canterai. E anche se di sta canzone non ne parlerai, la canterai, la canterai. Perché parla di te. La canterai. La canterai perché parla di te.